Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti per l'attenzione, l'appuntamento rimane rinnovato a domenica prossima alla medesima ora. Grazie a Luca Giulio per la regia. Buona giornata a tutti. Buona settimana.